esistere molti altri laboratori con la lunga vita del nostro, con la, diciamo, la produzione anche editoriale del nostro, questo ho qualche dubbio, perché non, perlomeno se esiste non ha visibilità, ecco, nel senso che non lo vediamo, non lo conosciamo, può essere. Con internet oggi quasi tutto ha visibilità, quindi se ci fosse dovrebbe essere. Beh, anche quello, notato. Non fatevi, anche questo, non fatevi illudere da internet, non pensiate che quello che esiste lo trovate su internet e viceversa, quello che non c'è su internet non esiste, insomma. Tu ci sei su internet? No, eppure esiste. Ci sei su internet? Beh, ad esempio l'archivio provinciale qui dentro Ange organizza da anni dei corsi per cronisti di paese, però purtroppo con tutti i pregi e difetti della realtà locale, no? Il pregio è dovuto al fatto che questi cronisti di paese sono persone molto molto legate al paese, al territorio, così, e registrano proprio ogni avvenimento, così, insomma. E quindi sicuramente fanno un'azione meritoria che in futuro qualcuno potrà utilizzare. Il difetto di questa cosa qua è una cosa molto molto etnica, no? Per cui purtroppo solamente lo scorso anno, dopo 5 mozioni di Alleanza Nazionale, è partito il primo corso per cronisti di paese in lingua italiana, no? Perché l'hanno fatto da 5 anni a questa parte in lingua tedesca. Io ho seguito poi le prime due lezioni perché mi interessava vedere l'utenza di questi cronisti di paese di lingua italiana, ed erano una decina di persone, e quindi mi interessava vedere chi fossero queste persone. Quelle sempre persone che abitano nei paesi, ecco, che avevano un po' questo desiderio di integrarsi, di raccogliere anche le loro testimonianze. Quindi. Però purtroppo, insomma, cose molto separate tecnicamente, insomma, no, che a noi non ci fanno neanche più impressione, però magari al Trentino gli sembra una cosa strana. No? Ecco, qui ormai è tutto così. Del resto è anche vero che quando 10 anni fa la ripartizione è partita con un progetto di pubblicazione di storia della comunità di lingua italiana, no? A partire dall'Ottocento, l'immigrazione trentina nell'Alto Adige, soprattutto nella Bassa Tesina, no? Legata prima alla costruzione della ferrovia del Brennero nel 1860, poi all'acquisto da parte di alcune famiglie di trentini, roveretani, soprattutto di appezzamenti di terreno nella Bassa Tesina, i Miori, i Savaroni, i Crivelli, così, i Viesi. E quindi queste persone che si sono portate su poi dopo i contadini dei loro paesi, hanno cercato 10 anni fa appunto di attivare un gruppo di ricerca che poi ha pubblicato anche diverse ricerche da questo punto di vista. Subito ci è stato chiarito: ah, voi volete fare il partito unico degli italiani. Vedete che qua c'è subito questo rischio, no? Di essere di considerare una parte, ecco, così, insomma, no? Questo rischio in effetti c'è sempre, no? L'uso strumentale della storia. Del resto anche i trentini, prima che arrivassero loro, avevano un po' questa cosa qua, i trentini del mondo, cose di questo tipo, ma no? Ci sono ancora, ecco, che però avevano così un approccio alla storia molto, molto diverso, insomma, per certi aspetti, sì. No? Ecco. E si tratta di vedere anche... Fanno anche altre cose. Sì, fanno anche altre cose. Si tratta di vedere qual è poi l'approccio che tu hai con la storia, se tu nella storia vuoi andare a trovare le tue radici, le tue cose, oppure se tu nella storia vuoi andare a trovare le ragioni del tuo esistere, no? Cioè il fatto che tu rivendichi il diritto, no? Ecco, non a caso gli storici molto spesso sono stati al servizio dei nazionalisti più brutali, e non a caso nella storia della nostra terra noi vediamo i nazionalisti italiani che andavano sempre a ricercare, a studiare l'epoca della presenza dei Romani, no? In Alto Adige, perché questo serviva a loro per dire: vedete, noi siamo i nipoti di Druso, quindi abbiamo diritto anche noi a stare qua. Nazionalisti tedeschi andavano magari nel Medioevo, dicevano: vedete, lì erano tutti tedeschi, noi siamo quindi i legittimi abitanti di questa terra, no? Quindi ognuno andava a vedere nel passato, andava a studiare il periodo nel quale il proprio gruppo poteva in qualche modo rivendicare la primogenitura della popolazione presente, ecco così. Si tratta di capire che questa è una visione strumentale della storia, e che chiaramente la storia va vista tutta insieme, e possibilmente poi anche non solamente per gruppo linguistico, ma così. Questo problema chiaramente nel Trentino è molto meno diffuso, anche se nel Trentino magari può esserci anche lì un discorso di uso politico della storia o dell'antropologia. Pensiamo ad esempio quando negli ultimi 10 anni molti esponenti politici nell'Italia del Nord dicono: vabbè, l'autonomia per l'Alto Adige, ma perché c'è l'autonomia del Trentino? Ecco, molti politici del Trentino dicono: l'autonomia del Trentino perché noi abbiamo gli Alini, abbiamo i Mocheni, e allora vanno poi a valorizzare queste minoranze etniche che ci sono sempre state, ma che però per molti anni erano viste così, adesso vengono valorizzate proprio perché serve anche qualcuno questo argomento per motivare questo tipo di autonomia, no? Cioè questo uso politico ovviamente c'è sempre stato, purtroppo ci sarà sempre, insomma, no? Ecco, questa è la cosa abbastanza evidente. Insomma, così. Io chiamo proprio nome per nome, vedo in sala Tiziano Rosani e Fabrizio Mioli della Fabbrica del Tempo, che 10 anni fa hanno fondato questa associazione che aveva anche questi propositi, no? Cioè di animare e anche organizzare, no? Gruppi di ricercazione sulla storia locale, e volevo sapere quali sono le cose grosse che siete riusciti a fare in questi ultimi 10 anni e quali sono i progetti che avete in corso rispetto a questa storia. Parola Presidente, io. Grazie. Forse meglio se vieni. Ah, devo proprio. Sì, forse meglio, così ti capisco meglio. Si registrano e 50 e passi alla storia. E se non si cancella, poi naturalmente. Grazie soprattutto di aver fatto riferimento alla difficoltà di garantire dei supporti nel tempo, che è uno dei grandi problemi di cui tutti ci dobbiamo occupare, ed è un vero problema. Abbiamo fondato un'associazione insieme a Fabrizio Miori, insieme a tante altre persone, per cercare di raccontare quella che è la storia della nostra provincia, con particolare attenzione alla comunità di lingua italiana, che era un po' un settore trascurato, diciamo, non c'era molto. Abbiamo creato un'associazione, abbiamo lavorato soprattutto sulla tematica della zona industriale, abbiamo fatto delle ricerche sul villaggio Lancia, delle ricerche sulla Lancia Iveco, sulla Viberti, abbiamo lavorato sulle centrali idroelettriche su cui stiamo ancora lavorando. Abbiamo fatto vari lavori anche relativamente a raccolta di materiale fotografico. Questo è un progetto che naturalmente ci prenderà soprattutto negli anni prossimi, perché nel corso del tempo sono stati raccolti molte fotografie, molto materiale, e abbiamo naturalmente questo problema ben citato, ben spiegato, della difficoltà di garantire su supporti normali, cioè CD, la conservazione di questo materiale. Quindi uno dei progetti su cui stiamo lavorando è appunto di creare un vero e proprio archivio che possa garantire e restituire, ecco, anche questo è un tema molto importante, restituire alla cittadinanza quello che è stato raccolto. Noi non siamo un vero e proprio laboratorio di storia, siamo un'associazione, quindi magari una domanda che voglio porre ancora è quella della vostra forma giuridica, cioè che cosa siete. Proprio a lui fare questa domanda. Mai posto il problema. È un gruppo informale, sostanzialmente. La gente viene, va, molti di quelli che vengono rimangono, alcuni sono lì dall'89, insomma, sono invecchiati lì, secondo me. Non c'è nessuna. Noi siamo nati all'interno dell'Università della Terza Età, poi questa assessora comunale a Chiasera se n'è andata, e è arrivato un altro a cui non eravamo molto simpatici, quindi ha fatto di tutto perché noi uscissimo da lì. Siamo usciti da lì, siamo rimasti comunque come laboratorio di storia, siamo sostenuti, insomma, per quel poco che serve per il nostro mantenimento dal comune di Rovereto, e poi le nostre ricerche, il fatto che spesso diventino libri, diventino mostre, beh, questo mette in moto dei meccanismi istituzionali, interistituzionali, che ci permettono di fare anche delle operazioni piuttosto costose. Perché, non so, quel libro, Il popolo scomparso, lo vedete lì, insomma, se voi lo aprite, lo sfogliate, vedete, insomma, che è un libro che non può fare, no, un gruppo di storici scalzi, come qualcuno ci definisce, no? Qualcuno si definisce, perché è un'operazione che da un punto di vista editoriale è molto costosa, no? Ma tutto il lavoro è costoso, perché, insomma, già il fatto di avere nella sede del laboratorio uno scanner non particolarmente costoso, ma insomma, ecco, semiprofessionale, altre macchine del genere, la riproduzione prima, la riproduzione fotografica era sempre piuttosto, voi sapete, piuttosto costosa. Ecco, allora, il tutto, sì, è un po' un'anomalia in effetti, no? Se ci pensi, cioè è un gruppo spontaneo, finora sottoposto da, cioè mai sottoposto a interventi di censura o di, no, niente, proprio abbiamo goduto della massima autonomia e della massima libertà, anche perché noi offriamo in cambio quello di cui parlavo prima, cioè la restituzione alla comunità di questa memoria che ci viene consegnata a frammenti, a frantumi, no? E il nostro lavoro, che è un lavoro non retribuito, serve per questo, diciamo, per questa operazione di restituzione e quindi di elaborazione di una memoria collettiva molto, molto, molto forte. E, appunto, allora, questo gruppo spontaneo gode però di un sostegno istituzionale che in qualche caso è straordinario. E anche in questo c'è un po' di straordinarietà, no? Nel senso che il lavoro del laboratorio riesce a mettere assieme, adesso sì, com'è che si usa quella parola? Sinergia, ecco, bravo. Allora, ecco, benissimo. Di il Museo Storico di Trento, il Museo Storico di Rovereto, che normalmente, insomma, non sono molto, no? Ecco, molto ben disposti a collaborare fra di loro, la provincia di Trento, il comune di Rovereto, insomma, ecco, quindi però non c'è uno statuto, non c'è non ha una sua identità statutaria, no, amministrativa, è una cosa così, nata sì all'interno di un ambito istituzionale, ma in modo molto spontaneo, e è continuata ad essere così, per fortuna, insomma, perché, no, questa è anche la costituisce anche la forza, ecco, perché si comincia a fare statuti e presidenti, segretaria, verbalista, queste cose, dopo no, tutte le tue energie vanno a finire lì, insomma, mentre no, uno vuole, entra, esce, no? Ecco, se bega, c'è anche una forte vita sociale, anche una forte coesione, no? Sociale, di amicizia, per cui si va a cena, a pranzo, insomma, ecco, c'è anche questa dimensione qua, che è una dimensione che non va trascurata, insomma, perché un gruppo spontaneo deve avere qualche motivazione anche in più rispetto, no? All'ambizione, all'orgoglio, no? E anche alla convinzione di star facendo qualche cosa di importante per la comunità. Deve esserci anche un bel clima, deve esserci anche, no, cioè qualcuno che viene per la prima volta non può essere la tessera, cioè, viene lì, guarda, osserva, no? All'inizio un po' magari stenta a capire, no? Entrare dentro questo meccanismo, dentro queste dinamiche, ma poi se si trova bene non ci abbandona più, insomma, no? Diventa subito coppia di fatto, dico, insomma, quella roba lì, ecco. E, sì, amatoriale, sì. Sì, cioè, ma sì, amatoriale è un bel termine, certo, sì. È vero, è un bel termine. Artigianale, amatoriale, sì. Ecco. A questo proposito, lei accennava prima delle discussioni all'interno di un gruppo, diciamo, di persone semplici che sono stati testimoni, quindi la storia. Sì. Anche testimoni, certo. E l'ultima parola a livello metodologico, chi ce l'ha? Beh, io naturalmente. No, ma no. Però devo capire meglio, cioè metodologico in che senso? Cioè di come... La ricerca, prima c'è il momento dell'entusiasmo, raccolta di frammenti, raccolta di fonti. Sì, però tenete all'inizio la ricerca è stata molto pilotata da noi, per ovvi motivi. Nel corso della vita del laboratorio, molti lavoratori, sì, molti lavoratori del laboratorio, no, utenti non mi piace, hanno affinato una loro, cioè si sono costruiti una loro professionalità, no? Anche, non so, nel trattamento della fonte fotografica, iconografica, per esempio, no? Delle fonti. A parte che in qualche caso abbiamo passato mesi dentro degli archivi, no? Perché poi io ho dato un'idea non completa del lavoro che abbiamo fatto, perché oltre che raccogliere fotografie, memorie, eccetera, abbiamo anche fatto dei lavori d'archivio molto, molto importanti, molto faticosi, anche noiosi, non so, per esempio per fare quel lavoro su Rovereto fra il 19 e 39, quello che poi va a finire in quella raccolta di saggi, abbiamo lavorato per mesi nell'archivio del Tribunale di Rovereto. Ecco, abbiamo lavorato per lungo tempo nell'archivio della struttura sanitaria per la mortalità, i dati sulla mortalità, la morbilità, eccetera. Quindi è gente, insomma, che se tu adesso l'avvicini, no? Se parli con loro, è gente smaliziata, cioè è gente che sa il fatto suo in termini di reperimento delle fonti, no? E c'è una trasmissione all'interno una trasmissione spontanea, no? Di vicinanza, diciamo, all'interno del laboratorio fra i vecchi e i nuovi, ecco. E quindi c'è sempre il testimone, viene lasciato a, no? Qualcun altro che lo raccoglie e affina a sua volta tutta una serie di sue capacità. Poi ognuno mette il suo. È chiaro che io, no, avendo avuto la possibilità di studiare, mi sono dedicato alla ricerca storica, no, sempre da amatore, da dilettante, non da professionista, avendo la possibilità di continuare a leggere, di confrontarmi, di andare a qualche convegno, eccetera, è chiaro che io metterò del mio, insomma, e sarà forse di più di quello del Gianni Canepel o della Lidia Lestani, però insomma diciamo che è quello che succede dappertutto, no? Cioè anche all'interno di una famiglia c'è chi mette di più, c'è chi mette di meno, ma alla fine il prodotto, no? di questa confluenza di esperienze diverse, di diverse sensibilità, di diversi modi di comportarsi, di vedere le cose, è un prodotto collettivo, insomma, no? Cioè, è difficile dire, no? Ma certo che c'è l'impronta mia, no? Ma certo che c'è l'impronta dell'altro, no? Però, come dicevo prima, se io avessi lavorato da solo non sarei riuscito a farlo, insomma, ecco, questo lavoro, no? Non sarei riuscito a fare quei lavori, così come se loro si fossero ritrovati da soli magari avrebbero fatto forse, no, con diligenza i reporter di paese o i cronisti di paese, ma non sarebbero riusciti a fare invece qualcosa di molto più sofisticato, insomma, di molto più complesso di quello che siamo riusciti a fare. Credimi, cioè, non è retorica populista la mia, cioè, davvero c'è una continua elaborazione di idee, di confronto, no? Anche da sempre abbiamo un grafico che ci segue, che anche lui, no, più o meno la stessa nostra storia, e anche con lui c'è un continuo travaso di esperienza, di valutazioni, no? E ogni libro ha una sua, diciamo, se voi li guardate in serie, ogni libro è l'evoluzione dell'altro, no? Ma c'è qualcosa di nuovo, ma c'è qualcosa di più, e il prossimo sarà di più di quello che è Il popolo scomparso. Sì. Allora, prima faceva anche riferimento a collaborazioni esterne, sì. Vengono attivate attraverso la provincia autonoma? No, normalmente le cose funzionano così. Noi elaboriamo un progetto, lo presentiamo al comune, che è il primo nostro interlocutore, e poi ai musei, che sono i due interlocutori di tipo scientifico, diciamo, ecco, o storico, storiografico. Dopodiché il progetto passa alla provincia per il finanziamento, e normalmente la provincia assegna a uno dei due musei la cura amministrativa di questo, di questo progetto. Per esempio, Popolo Scomparso è stato seguito soprattutto dal Museo Storico di Trento, il lavoro che stiamo facendo sulla Seconda Guerra Mondiale è invece seguito dal Museo della Guerra di Rovereto. Però i finanziamenti sono sempre provinciali e in ogni caso, insomma, è un ruolo di tipo amministrativo. Anche perché noi, appunto, non essendo dei soggetti riconosciuti, non avremmo neanche la possibilità di avere un finanziamento diretto dalla provincia. Dovremmo comunque passare attraverso il comune, ma voi sapete che non è facile passare attraverso, è più facile passare attraverso i musei. I due musei di Trento Rovereto sono attualmente ancora due associazioni private, quindi è più facile, no? Anche far passare soldi, far entrare e uscire soldi. Per il comune sarebbe diverso. Ecco. E volevo aggiungere un'altra cosa per far capire meglio l'ambiente in cui operiamo. Anche la raccolta delle testimonianze, che è stata forte soprattutto e significativa soprattutto nella prima fase di vita del laboratorio. Adesso invece per gli ultimi due o tre lavori abbiamo lavorato in modo un po' diverso. E la raccolta delle testimonianze non è la raccolta che può fare un singolo ricercatore, no? Anche su questo abbiamo avuto molti confronti anche all'interno del laboratorio, perché non è voi lo sapete, non è la stessa cosa, no? Che un singolo ricercatore, uno storico, un raccoglitore vada a chiedere la testimonianza di una persona, no? La persona magari non dice di no perché è cordiale, perché non vuole deluderlo, eccetera, ma che cosa dirà? Questo è il problema, no? Perché voi sapete che le testimonianze orali sono le fonti forse più insidiose che ci siano, no? Perché sono cariche di soggettività, sono cariche di ambiguità, sono qualche volta cariche anche proprio di finezze che non si colgono, qualche volta anche proprio di no? Ti trovi davanti dei personaggi che ti sviano, no? Ti ingannano qualche volta. Noi abbiamo avuto un confronto, per esempio, a proposito della Seconda Guerra Mondiale, con una ragazza che ha fatto un lavoro di ricerca sul CST, sul Corpo di Sicurezza Trentino, e sul quale abbiamo lavorato molto anche noi, e ha fatto una tesi di laurea. Beh, ma le testimonianze che ha raccolto sono delle cose fasulle, sono delle testimonianze assolutamente inattendibili. Insomma, voi sapete che cos'è il CST, no? C'è il corrispondente, cos'è? La SOD, no? Sì, ecco, benissimo, sì. Beh. Sì, però, cosa? Lo stesso Trentina, no? La SOD è qualcosa di abbastanza diverso. Sì, vabbè, analogo. Sì, ecco, sì, no, sì, ma era tanto per... Ecco, ecco. Sì, sì, esatto, ecco. Quindi è un terreno difficile, no? Da frequentare, eccetera, da studiare. E quelli che sono stati membri del CST oggi hanno, no, un rapporto con il loro passato che è un rapporto molto particolare. Ora, se va la ragazzina, la ragazza, ma può essere anche una persona adulta, ma che non ha gli strumenti, no, per gestire bene questa testimonianza, questa intervista, ne leggi poi di tutti i colori. Allora, il laboratorio crea delle condizioni particolari, no? Per raccogliere delle testimonianze che vorrei dire più attendibili, perché si crea un rapporto fiduciario, no? Si crea una sorta di complicità all'interno del laboratorio che fa sì che uno venga a dirti delle cose che altrimenti probabilmente non avrebbe mai detto, e abbiamo potuto proprio verificarlo confrontando delle testimonianze raccolte da questa ragazza e la testimonianza delle testimonianze raccolte da noi dagli stessi testimoni, in cui quei testimoni dicevano delle cose assolutamente diverse. Perché? Ma perché, per dirne una, uno dei testimoni, che è un famoso ex CST che si era trovato a partecipare a questa operazione di rastrellamento nel Tesino, ed era stato uno che aveva quantomeno visto, no, ammazzare la Clorinda Menguzzato, l'Ancilla Marighetto, era il marito di una del laboratorio, e dopo qualche anno che lei partecipava al laboratorio, ed è stato un rapporto difficile fra noi e lei, perché eravamo molto, lei era molto sospettosa di noi, no? Lei aveva molto condiviso l'esperienza del marito, anche filtrata dopo attraverso tutta l'esperienza pipititina del padre, cioè autonomista, insomma. Dopo molto tempo che lei era al laboratorio, stavamo lavorando sulla Seconda Guerra Mondiale, Rovereto nella Seconda Guerra Mondiale, lei ad un certo punto ha detto: ma mio marito sarebbe disposto a parlare. Ed era la prima volta che lui lo faceva. Ed è stata una testimonianza drammatica, perché lui si è trovato in una situazione di grande sicurezza, no? Di grande corrispondenza, no? E ha detto delle cose che lui stesso non aveva mai elaborato fino a quel punto, delle cose terribili, insomma, no? E io ho un ricordo indelebile è venuto due volte, insomma, ma della seconda volta, perché mi ricordo quest'uomo ormai adulto, anziano, insomma, no? Un uomo che è sempre stato conosciuto, un uomo forte, un uomo duro, insomma, politicamente molto schierato, eccetera, me lo ricordo in lacrime, no? ma lacrime fluenti, insomma, no? Disperato nel raccontare la storia di questa sua esperienza di morte, questa esperienza luttuosa, e ricordo che lui raccontava questa cosa di come avevano individuato questa partigiana che era nascosta sull'albero, era inverno, e l'avevano fatta scendere dall'albero, l'avevano passata per le armi lì, no? Una ragazza giovane, molto bella, e fin lì, vabbè. E poi un suo coetaneo, membro del laboratorio, gli chiede: ma non l'avete neanche seppellita? Cioè non gli avete neanche buttato su un po' di neve? E lui, affermando, cioè, di non aver fatto questa cosa, è scoppiato in una crisi di pianto quasi irrefrenabile, insomma. Ecco, per dire come anche il lavoro sulle fonti orali, no? Cioè, si può fare in molti modi. Voi sapete che gli antropologi la usano moltissimo, no? La usano moltissimo anche gli storici, eccetera. Però è pericolosissima, no? Spesso la usi sapendo già quello che vuoi che uno ti dica, no? Ecco, avete presente gli esperimenti che fanno sui gli animali, i cavalli che sanno contare, no? Battendo lo zoccolo. Ecco, perché il cavallo semplicemente è in grado di capire che cosa tu vuoi che lui faccia, no? Ecco. E il testimone spesso agisce così, no? Inganna sapendo di essere a sua volta ingannato, forse. E quindi la testimonianza orale bisogna, insomma, coltivarla in un certo modo, ecco, se no. Arrivederci, signore. CST la so, per esempio. Beh, io non sono uno studioso di questo, ma certamente la faccenda è questa, che l'Alpen Vorland ha fatto una distinzione netta tra Trentino e non si chiamava neanche Sud. Il termine Südtirol entra era in funzione con lo statuto di autonomia, con l'accordo dei casi di Gruber, così non c'era. No, logico che era una grande differenza, una sostanziale differenza, però appunto il CST ha avuto anche a che fare con una resistenza. Qui anche la SO e anche la Verma e anche la SS hanno avuto a che fare con una certa resistenza, no? Perché c'era anche qui su Tirolese e Garter la gente lì, però di carattere completamente diverso, no? E c'è questo, sì, quindi già era una situazione diversa, e poi era una questione molto trentina, cioè c'è stato anche il fatto che molti trentini hanno respirato un'aria nuova di quell'autonomia che De Gasperi voleva, chiedeva a Sonnino, insomma, voglio dire, no? Cioè, c'è una traccia storica, sì, trentina di questo tipo, non sentita forse tanto a Rovereto, ma più in altre parti, nelle valli, in altre parti del Trentino, ecco. Quindi c'è una differenza fondamentale, no? Senza dubbio quelli che hanno partecipato alla SOD e non si sentono assolutamente qui da noi responsabili di nessuna cosa negativa, ma solo di fatti positivi, no? Questo è chiaro. Invece nel caso del Trentino, c'è questo, insomma, no, c'è sempre stata polemica. Sì, sì, e d'altra parte è così, insomma, è una storia, come tutte le storie, piuttosto tragica, ecco, sia qui che in Trentino, no? E poi pensiamo al litorale adriatico, per esempio, no? Questa situazione è capitata dopo l'8 settembre, no? Una cosa tragica, insomma, quello che è avvenuto. No? Sì. Ma certo che sentendo lei, io ho conosciuto Rasen, perché io sono una persona molto anziana, come lei vede, no? E pensi che io 40 anni fa qui a Bolzano avevamo un gruppo che si proponeva di promuovere l'istituzione dell'università e aveva dei contatti con studiosi inglesi, alcuni di fede quacca, no? E mi ricordo che proprio questi ci hanno fatto conoscere il tipo di ricerca storica che diceva lei e ci hanno anche dato dei volumetti, eccetera, che venivano pubblicati. Questo, io ho saputo di questo tipo di ricerca di base, da non confondersi appunto con la cronaca locale, cioè col genius loci, eccetera, robe di questo genere, no? E io ho appreso questo. Certamente sentendo quello che lei ha detto del lavoro che state facendo, io mi sono sentito invaso da un certo spirito di ottimismo che contrasta col mio carattere, perché devo dire che sì, è straordinariamente bello quello che fate, e mi fa piacere che si faccia, e penso che sì, potremmo avere anche un futuro migliore da quello che si vede adesso, no? Adesso siamo in una situazione in cui veramente la partecipazione viene tagliata, no? Cioè, partecipare, al massimo si fanno le gite turistiche per dimostrare, fare manifestazioni, come abbiamo avuto questa manifestazione stravagante, no? Anti-TAV qui a Bolzano, no? Ecco, appunto, dicono a 10.000, a 20.000, no, dipende dai pullman, dall'organizzazione che facciamo, c'è come c'è il turismo per i concerti lirici, c'è il turismo per le manifestazioni. Quindi, insomma, non è che dobbiamo meravigliarci molto, ma questo non è partecipare. Partecipare, questo è questo laboratorio, è la vera forma autentica, valida, di partecipazione. È la presa di coscienza, possiamo usare questa parola grossa, storica, no? Ecco, questo mi pare che sia una cosa straordinaria, netta, positiva, e quindi così, con tutta spontaneità, e mi dico contento di averla ascoltata. Allora, noi approfittiamo di questa incredibile dichiarazione di ottimismo da parte di Carlo Nord, che di solito sono nero. Per chi non è in bellezza la serata, per darci appuntamento fra due settimane, sì, con Ennio Marcelli, prossimo. Sì. Ecco, Marcelli ci parlerà della sua esperienza di raccolta e documentazione, non proprio autobiografica, ma di storia del quartiere in cui lui è nato ed è cresciuto. Grazie. Mi approfitto un attimo per dire solo due cose. La biblioteca ha istituito una sezione memorialistica, quindi chi avesse un diario dei memoriali, ecco, lo può consegnare, se ha voglia, ecco, alla biblioteca, che lo catalogherà e lo conserverà, oltre che mettendolo a disposizione. Non lo farà nessuno. Perché lui è stronco. Noi ci proviamo. Poi dall'altra abbiamo anche delle foto, abbiamo anche noi un nostro gruppo di persone che dalla scorsa estate periodicamente si reca, viene qui in biblioteca e ci aiuta a descrivere queste foto. Sono le foto delle acciaierie, quindi abbiamo trovato degli ex dipendenti, dai quadri agli operai, che ci danno una mano nel ricostruire questo archivio fotografico e nel redigere anche delle didascalie e collocarle cronologicamente. Se conoscete qualcuno, questi sono appelli che facciamo, perché cerchiamo di muoverci, di iniziare a creare un po' un interesse anche noi sul patrimonio che abbiamo e che vorremmo sistemare. Ci vediamo fra due settimane allora, grazie mille.